Effetto Mondo. The framers of the Constitution worried then, as we worry today, that a leader might come to power not to carry out the will of the people that he was elected to represent, but to pursue his own interests. Eccoci qua, Giulia Crivelli, nuovo buongiorno. Sì, abbiamo scelto. Chi era e cosa ha detto? Abbiamo scelto le parole di Adam Schiff, che è l'impeachment manager, che ieri ha fatto, secondo giorno di audizioni, ha fatto un discorso di 2 ore e 40, che credo nessuno si aspettasse, perché benché, come abbiamo detto più volte, dovrebbero stare tutti seduti al loro posto fino alla fine delle audizioni della giornata, il giudice che è a capo di questo processo, che dà la parola, la toglie, ha detto adesso 10 minuti di recess e sono andati tutti. Sarebbero morti. Quindi 2 ore e 40 in questo passaggio in particolare ha citato molte volte la Costituzione, Adam Schiff, e in questo passaggio in particolare citava una delle preoccupazioni principali dei nostri framers, dei nostri founders, quindi dei padri fondatori, era che nessun presidente agisse per il proprio interesse e non per l'interesse del popolo, delle persone, dei cittadini. Il riferimento è naturalmente al fatto che Donald Trump, nella famosa telefonata, in tutto quello che naturalmente i giornali oggi, i giornali americani riraccontano nel dettaglio, in quella famosa telefonata chiedeva un'inchiesta su Biden figlio e padre, quindi per il suo interesse di rivale di Biden e non certo per l'interesse nazionale, che invece era che l'Ucraina si rafforzasse con quei famosi aiuti per tener testa alla Russia, che almeno sulla carta non è proprio alleata degli Stati Uniti. Ecco Giulia, ma adesso questa battaglia dell'impeachment tra democratici e repubblicani si gioca anche sulla convocazione dei testimoni. Esatto. Mi dicevi che il voto può anche essere incerto, perché magari qualche repubblicano potrebbe dire sì, ma sentiamoli. Per esempio il New York Times oggi dice gli repubblicani che non si ricandideranno di fronte a tutta queste, però sapete il New York Times è un po' di parte, diciamocelo, di fronte a tutte queste prove che in effetti il famoso quid pro quo, cioè legare gli aiuti all'Ucraina alle inchieste sui Biden, ci sia stato, che cosa gli dirà la loro coscienza, perché chi deve essere rieletto ovviamente non vuole andare contro Trump, e quindi questo voto sulla convocazione dei testimoni dovrebbe, forse almeno da quel che ho capito dai commentatori, forse un po' meno incerto del previsto e su questo ha commentato anche Amy Klobuchar, che sapete è la candidata alle primarie democratiche per diventare la sfidante di Donald Trump, ha avuto l'endorsement del New York Times insieme a Elizabeth Warren. Ieri, siccome lei deve partecipare a questi, perché lei è una senatrice del Minnesota, deve partecipare quindi a queste sedute, nei 10 minuti famosi è stata intercettata dai giornalisti. Sentiamo cosa ha detto. And we're all there to do our duty. We're going to sit there till the very end. We're going to listen to the evidence. Ecco, lei dice, siccome nella ringa di Pat Cipollone, che sarebbe Pat Cipollone, ma loro dicono Cipollone, così come dicono Bologna anziché Bologna, e nella ringa lui ha detto, so che vorreste essere tutti altrove, non ad ascoltare decine di ore. E lei qui dice, no, vi assicuro che anche i miei colleghi repubblicani sono consci che per la terza volta nella storia degli Stati Uniti c'è un processo per impeachment, non vorremmo essere altrove, siamo qui e ascolteremo fino in fondo quello che hanno da dire le due parti. Senti Giulia, che cosa è successo al fondatore di Amazon, Jeff Bezos? Ma guarda, ieri c'era questa inchiesta sul Guardian, poi come spesso accade non riusciamo a segnalare tutto, e l'inchiesta del Guardian diceva che Jeff Bezos è stato hackerato dal principe saudita prima ancora del famoso assassinio del giornalista Khashoggi all'interno del consolato. Hackerato Bezos, nessuno è sicuro. Bezos, quindi evidentemente. Adesso pare che non soltanto sia stato hackerato ma anche minacciato, tanto che il Guardian oggi, facendo seguito alla sua inchiesta di ieri, dice che addirittura le Nazioni Unite chiedono un'inchiesta su questa questione, cioè sul fatto che di fatto il principe, il numero uno dell'Arabia Saudita, abbia minacciato in qualche modo, o volesse comunque minacciare l'azienda e l'uomo più ricco d'America, che Jeff Bezos. Quindi questa cosa oggi viene ripresa da tanti giornali, anche non solo quelli britannici, ai quali ha fatto molto effetto. Però sui giornali britannici quasi tutte le fotonotizie sono di forse noi non ne conoscevamo il viso, però sicuramente come conosciamo i Monty Python, il suo inventore Terry Jones è morto ieri, era nato nel 1942, da anni soffriva di una malattia neurodegenerativa e insomma per lo humor inglese come lo conosciamo era un mito ovviamente. Quindi... Ecco perché sono importanti, io per esempio ammetto la mia ignoranza sui Monty Python, importanti? Non so, è un po' come, insomma, erano per dirti John Cleaver, che è quello poi che è stato il presidente di Un pesce di nome Wanda, è stato uno dei Monty Python, è stata un po' la scuola della comicità inglese che poi si è diventata famosa nel mondo, quindi molto humor inglese. Io non so, ma se avete visto il film dove c'è il signore che mangia e poi esplode, è diventato quasi un archetipo del mangiare fino a esplodere. Giulia, giornali europei, da dove vogliamo cominciare? Ma giornali tedeschi, giornali francesi e anche quelli spagnoli prima di tutto danno conto del forum sull'Olocausto che c'è stato a Gerusalemme, al quale ha partecipato anche il nostro capo di Stato Sergio Mattarella. Siccome hanno parlato, hanno fatto dei discorsi molto appassionati sia Macron che il re della Spagna, c'è spazio per questo, ma poi naturalmente anche per il virus, per l'epidemia, perché comincia a fare paura. Insomma, sono tanti i cinesi che o lasceranno l'Europa o arriveranno in Europa per questo famoso capodanno cinese, cioè che è il 25, quando si festeggia l'inizio dell'anno lunare, che poi sarà l'anno del topo e non del virus, ma temiamo l'anno del virus. I giornali cinesi in lingua inglese, China Daily in questo caso, cosa riportano? Guarda, sul virus? È un titolo di quelli che dovrebbe calmare, ma che noi sappiamo che non credo che abbia sortirà questo effetto, perché dice misure estreme per contenere la polmonite virale. Ecco, non si vuole neanche dire coronavirus. Invece The West Australian, che è uno dei quotidiani americani, dice codice rosso per il virus cinese. Poi di fianco c'è Meghan che porta a spasso i suoi cani in Canada e aspetta Harry, quindi insomma sacro e profano insieme. Però fa molta paura agli australiani, perché come dicevamo ieri sono tantissimi cinesi giovani residenti in Australia e quindi c'è paura per questo passaggio di virus, che ovviamente non devono far vedere il passaporto alla frontiera. Quindi tutto in Spagna perché Sanchez vuole aumentare il salario minimo, ma ne parleremo magari domani perché non ci abbiamo tempo. Okay. Giulia. Grazie, è tutto per la puntata di oggi. Un ringraziamento a Jacopo De Franchi, Laura Faggin in redazione, Valeria Bernardi in regia, ad Alessio Maurizi, auguri una buona giornata. Ci sentiamo tra poco per i titoli del GR delle 14.